proverò a srotolare forte il mio pensiero e riavvolgerò da te. Rivedrò assottigliare piano quel sorriso, cambiare forma al viso in un gioco di dita che mi prende la vita, la vita, e si allontana dolce quel sapore. Non vorrei risvegliarmi, proverei terrore. Voglio allontanare duro la speranza di una vita, la speranza che c'è in me. Voglio allontanare duro la speranza di una vita, la speranza che c'è in me. Sentirò il mio corpo come fosse un tirassegno allontanarsi poi da me. Seguirò le loro facce secche come il legno, trovare ancora impegno. Obbligato a una sfida prima che sia finita, finita. Ormai il silenzio copre il mio dolore, per poter riposare solo poche ore. Voglio allontanare duro la speranza di una vita, la speranza che c'è in me. Voglio allontanare duro la speranza di una vita, la speranza che c'è in me. Aiutami, illuminami, Dio salvami, Dio salvami, Dio salvami, Dio salva. Oh, oh, oh.